Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Un po' di acqua marina soprattutto, un po' di terremoti e poi anche di caso. Buonasera a tutti e tutte, benvenute a Mebius. Sentiamo insieme i titoli di questa puntata. Per 3 anni su tutti i mari del mondo è partita sabato scorso una spedizione oceanografica che non ha precedenti nella storia della ricerca. Ora abbiamo i primi dati precisi sugli effetti del terremoto che ha colpito L'Aquila e la sua provincia. Commentiamoli con chi li ha raccolti e studiati in questi mesi. Al CERN non si aspetta solo che il grande acceleratore riprenda a funzionare dopo il guasto di un anno fa. Sergio Bertolucci, il direttore della ricerca, ci spiega quali sono gli altri esperimenti in corso a Ginevra. Produrre energia pulita e gratuita dal mix di acqua dolce e acqua salata è la scoperta casuale di un ricercatore italiano che si occupa di medicina sperimentale. Il caso, nella natura e nelle scienze che la studiano, esiste e non possiamo evitarlo? Oppure è solo un limite superabile con il progresso delle conoscenze? Per chi si ricorda il grande film Via col vento, Tara era il nome della proprietà della famiglia con tutta la sua storia che attraversa il film. E certo, Via col vento e Tara possono essere un buon nome per una bella barca a vela. Invece Francesca Benzoni è il nome della nostra ospite questa sera. Buonasera Francesca. Buonasera. Ricercatrice in biologia marina all'Università Milano Bicocca. Tara, questa nave, è appena partita, Francesca invece è qui, ma se fosse gennaio avremmo dovuto incontrarla forse sott'acqua vicino a una barriera corallina, una cosa del genere mi sa. È così, ci troveremmo se fosse gennaio in Djibouti, ecco. Quindi in fondo al Golfo di Aden, tra il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, dove noi ci troveremmo a campionare delle scogliere coralline. Allora, proviamo a mettere tutto insieme. Tara è un 2 alberi. Esatto. Bello, grande. Quanto è grande? 36 metri. Mm. Francese? Francese. Francese, di proprietà di una signora che... Si chiama Agnès B., che fa la stilista, la creatrice di moda, sì. Ed è anche un'appassionata del mare e della navigazione e è una magnate della ricerca dei nostri giorni. E quindi ha dato questa nave per una ricerca oceanografica che non ha precedenti, insomma, no? Diciamo che ha precedenti che affondano però radici in tempi lontani, nel senso che dobbiamo andare dietro ai tempi del Challenger, diciamo nell'Ottocento, fino all'Ottocento, per trovare un'altra spedizione di questa lunghezza, di questa portata che solchi tutti i mari del nostro pianeta. Esatto, perché Tara starà in giro per il mondo per quanto tempo? 3 anni, è partita il 5 di settembre da Lorient in Francia sulle coste atlantiche, attualmente sta passando lo strato di Gibilterra e per i prossimi 3 anni fino al 2012 solcherà tutti i mari temperati, tropicali, artici e antartici del nostro pianeta. Dunque, e deve essere una barca a vela, non è solo una scelta perché c'è una signora che la mette a disposizione. Diciamo che è una scelta che ha diversi aspetti di comodo e strategici. Strategici sì. Perché è una barca che ha dei costi contenuti rispetto ai grandi vascelli oceanografici ricerca dei giorni nostri e quindi ci consente di fare effettivamente 3 anni di spedizione a dei costi concepibili, esatto. Con i soldi che girano oggi nella ricerca. Non è stato facile trovare questi fondi. Certo. E non sarà facile coprire tutta la ricerca che verrà da questa spedizione. Sì. L'altra motivazione è anche pratica, diciamo, questa barca ci consentirà di raggiungere anche dei luoghi che una grande barca non sarebbe in grado di raggiungere, in particolare quando parliamo di scogliere coralline, quindi ambienti poco profondi. Certo. È chiaramente una barca a vela, quindi la navigazione, tutto il piano di navigazione è strettamente legato ai venti e alle stagioni, sì. Ma questo fa anche parte dell'avventura. Fa anche parte dell'avventura. Il che vuol dire che in certi casi fa delle rotte un po' strane per raggiungere dei posti, perché esatto. Deve mettersi di traverso col vento, deve aspettare nei venti giusti. Ecco. Il progetto globale è un grande monitoraggio non solo di biologia marina, no? Anche di altro? Anche di oceanografia. Diciamo, anche di oceanografia. In generale quella che è la situazione oggi dei mari sul nostro pianeta, in termini di condizioni appunto delle acque e soprattutto un censimento di biodiversità quindi tutti quegli organismi più o meno visibili che popolano le nostre acque. Dico più o meno visibili perché una grande parte del progetto è incentrata sullo studio del plancton, quindi di questi piccoli organismi, a volte unicellulari, che vivono nella colonna d'acqua fino a grandi profondità e che sono fondamentali per la salute dei nostri mari. Anche per l'aria che respiriamo. E quindi è tutto un discorso, diciamo, microscopico su larga scala. E qui ritorna sempre fuori questa cosa che, di cui dobbiamo convincerci, è che abbiamo ancora un sacco di cose da capire, insomma, sul nostro pianeta e in particolare sui mari. In particolare, dicevamo prima, se fosse gennaio non sarebbe qui in questo studio, lei andrà a fare che cosa? Dunque, io mi occupo in particolare della diversità delle scogliere coralline, quindi quelle che noi chiamiamo le barriere. In generale la barriera è un tipo di scogliera, le scogliere coralline sono delle strutture tridimensionali costruite da organismi marini, in particolare coralli, alghe coralline, che si trovano oggi in fascia tropicale. Noi in Italia abbiamo delle scogliere coralline fossili, perché un tempo anche le nostre condizioni consentivano. Oggi dobbiamo spostarci, fortunatamente per noi, ai tropici e dobbiamo affrontare lo studio di quello che è l'ecosistema marino più diverso del nostro pianeta oggi. È stato tante volte paragonato alle foreste tropicali ed è così. Barriere coralline che in molti posti sono in pericolo, tra l'altro uno da ricordare è quello delle Maldive, nel quale l'Università di Milano Bicocca è impegnata con un progetto di cui abbiamo anche parlato qua in trasmissione. Qui direi concludiamo su questo fatto: è un progetto internazionale questo di Tara, ma l'Università Milano Bicocca ha una posizione, diciamo, di coordinamento generale. Assolutamente, in particolare per l'aspetto diversità scogliere coralline, la sede del coordinamento scientifico è proprio al Dipartimento di Biotecnologia e Bioscienze dell'Università di Milano Bicocca e c'è una forte componente di internazionalità. Oggi io sono qui a parlarvi di questo progetto, ma rappresento solo una piccola parte del grande gruppo di ricercatori che lavorano a questo progetto internazionale. Bene, credo che abbiamo detto tutto, la impegniamo fin d'ora a chiamarci quando raggiungerà delle mete per darci dal luogo notizie di questa spedizione. Assolutamente, con piacere. Grazie, auguri per questa ricerca. Grazie, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dopo il terremoto all'Aquila e provincia è iniziato un lavoro di raccolta dati su come le strutture abitative vecchie e nuove hanno risentito del sisma. Ce l'avevano spiegato i tecnici qui a Möbius che per avere un quadro attendibile però ci sarebbe voluto qualche mese. Il servizio di Maurizio Melis, che ora ascolterete, ci fornirà qualche prima interpretazione accurata. Avevamo promesso di tornare sui crolli all'Aquila quando le indagini degli esperti fossero giunte addirittura d'arrivo. Gli ascoltatori ricorderanno che nei giorni immediatamente successivi al terremoto erano girate molte voci, si era parlato di sabbia di mare usata nei calcestruzzi degli edifici, di varie irregolarità e comunque in generale era emersa una debolezza degli edifici pubblici, francamente anche inconcepibile in un'area che è notoriamente una di quelle a più elevato rischio sismico in Italia. Tuttavia, ci avevano spiegato gli esperti, le analisi avrebbero richiesto qualche mese prima di poter fornire un quadro chiaro e finalmente ci siamo. Non possiamo evidentemente entrare nel merito degli specifici casi perché ci sono delle indagini ancora in corso, ma cerchiamo di capire il quadro complessivo con il professor Gaetano Manfredi dell'Università di Napoli, presidente del Consorzio Rete Università di Ingegneria Fisica, che è proprio il centro di competenza della protezione civile su tematiche come quella che andiamo ad affrontare. Buonasera Manfredi. Buonasera ai radioascoltatori. Dunque Manfredi, abbiamo molte cose da dire. Lei e i suoi collaboratori vi siete praticamente trasferiti all'Aquila dai giorni immediatamente successivi al terremoto e avete presieduto, se non sbaglio, a 60.000 sopralluoghi. Avete fatto quindi valutazioni strutturali, eseguito carotaggi, analizzato i materiali da costruzione, fatto analisi distruttive, non distruttive. Insomma, che cosa viene fuori? Siamo di fronte a un problema di illegalità diffusa o invece di mancanza di diffusione di quella che dovrebbe essere una cultura del rischio sismico? Penso soprattutto agli edifici pubblici. Senza dubbio il caso di L'Aquila è un caso emblematico di quella che è la situazione italiana. Non possiamo escludere che ci siano stati dei comportamenti dolosi, che in alcuni casi si sia cercato di speculare. Su questo credo che la magistratura sta lavorando molto bene e farà sicuramente luce su questi casi. Ma il problema fondamentale che è emerso all'Aquila è la mancanza diffusa di una competenza sismica, di una sensibilità al rischio sismico che comune in tutta Italia ed è diffusa dal nord al sud dell'Italia, in tutte le zone sismiche. In particolare abbiamo osservato all'Aquila l'estrema fragilità dei centri storici e in parallelo anche il problema legato al fatto che molti edifici strategici, molti edifici con funzioni pubbliche molto importanti sono collocati proprio in edifici storici che di per sé sono estremamente vulnerabili. E anche questo è un dato molto diffuso in Italia. È un dato molto diffuso, il caso della prefettura di L'Aquila è un caso emblematico, un edificio che ha una funzione fondamentale in condizioni di emergenza, che è il primo centro di protezione civile, era collocato in un edificio storico sicuramente molto bello, ma anche sicuramente molto vulnerabile. Ecco, cerchiamo di aiutare anche i nostri ascoltatori, non si può diventare degli esperti di ingegneria fisica dall'oggi al domani, però cerchiamo di dare un po' di elementi di discernimento. Quali sono i fattori di rischio, per così dire, quelle cose che bisogna considerare in un edificio come degli elementi che possono rendere l'edificio più fragile nel caso di un terremoto? Ci sono vari fattori che possono essere considerati. È chiaro che è molto difficile dall'esterno per una persona non competente ed esperta poter giudicare il rischio sismico del proprio edificio, della propria casa. Però qualche considerazione generale la possiamo fare. In primo luogo gli edifici storici, gli edifici in muratura sono generalmente degli edifici molto vulnerabili proprio per la loro intrinseca realizzazione. E alla stessa maniera... Cioè quelli non fatti in cemento armato, per intendersi. Esattamente, gli edifici in muratura. Non significa che gli edifici in muratura sono tutti a rischio, ma sicuramente vanno guardati con attenzione. Un altro aspetto molto importante per gli edifici in cemento armato è l'epoca di costruzione. Sì. La gran parte degli edifici italiani sono stati costruiti negli anni 60 e in parte negli anni 70, quando non esistevano normative sismiche moderne e in molti casi molte zone non erano proprio classificate come sismiche, quindi si è costruito senza nessuna precauzione rispetto al terremoto. Cioè pur rispettando le norme, insomma. Anche rispettando le norme, perché la classificazione sismica è avvenuta, la grande classificazione sismica in Italia è avvenuta dopo gli anni 80, dopo il terremoto dell'Irpinia. E quindi questo fa sì che questi edifici vadano trattati con attenzione, vadano guardati nel profondo. Forse diciamo, una priorità nell'andare anche a fare delle verifiche potrebbe essere su questi edifici. Senza poi l'età di costruzione. Un secondo fattore molto importante è anche le caratteristiche di regolarità strutturale, cioè edifici che sono irregolari, faccio un esempio molto banale, se noi abbiamo un edificio con un porticato al di sotto, cioè privo di tamponature al piano terra, questo è un edificio che noi definiamo irregolare, questi edifici sono sensibili maggiormente al terremoto, all'Aquila molti di questi edifici hanno avuto un comportamento non molto positivo e quindi anche questi edifici vanno controllati. Anche poi le opere di modifica che si possono fare, che interrompono la regolarità che magari c'era precedentemente. Esattamente, molto spesso molti edifici sono stati manomessi, ci sono stati delle sopraelevazioni, delle modifiche, dei tagli, dei completamenti e quindi su questo va posta una particolare attenzione, vanno guardati, però in tutti questi casi debbono intervenire degli esperti. Esperti che siano in grado di poter fare una valutazione il comportamento. Un ultimo aspetto che volevo sottolineare, che credo che questa sia anche una cosa evidenziata al terremoto dell'Aquila, è il comportamento di quello che noi definiamo elementi non strutturali, per l'ascoltatore, le controsoffittature, le tamponature, gli impianti. Gli stucchi, molti di questi, piuttosto che... Esattamente, molte di queste cose che noi consideriamo non importanti per quanto riguarda la staticità della struttura, hanno in realtà avuto un comportamento molto negativo, sono crollate molti muri, molte tramezzature e ovviamente anche queste sono un problema, certo. Perché se ci cade una tramezzatura addosso, soprattutto nelle strutture pubbliche, questo può provocare dei danni anche molto importanti alle persone e quindi su questi temi c'è ancora da lavorare, ancora da fare anche dal punto di vista normativo. Va bene, grazie mille Manfredi e buon lavoro allora. Grazie radioascoltatori, arrivederci. Dunque, al CERN di Ginevra, fra un po', si pare fine novembre, dovrebbe riprendere a funzionare la grande macchina che, sfortunaccia, vi ricordate, aveva subito un guasto un anno fa, poco dopo la sua entrata in funzione. Ma non è che nel frattempo al CERN sono lì a mangiare panini e a giocare a dama, perché si stanno facendo un sacco di altri esperimenti e ve ne parla Barbara Gallavotti. Circa un anno fa, nell'entusiasmo generale, si è inaugurato al CERN di Ginevra l'acceleratore LHC. Probabilmente lo ricorderete, è la macchina che secondo i catastrofisti avrebbe dovuto generare un buco nero in grado di inghiottire il mondo. Il buco nero non ci ha inghiottiti. Poco tempo dopo, però, LHC ha avuto un guasto. Da allora, l'aspettativa per i risultati scientifici straordinari che LHC promette si è trasformata in una meno eccitante attesa che la macchina riprenda a funzionare, cosa fra l'altro prevista attualmente per la fine del 2009. Non tutti però al CERN aspettano. C'è anche chi lavora a pieno ritmo e prende dati. È poco noto infatti, ma il CERN non è solo LHC. Nel Laboratorio Europeo di Fisica delle Particelle ci sono anche altri esperimenti e diversi di questi sono in corso. Ne parliamo con Sergio Bertolucci, che è direttore di ricerca del CERN ed è spesso nostro ospite. Buonasera e bentornato. Buonasera a tutti e bentrovati. Allora, ci racconta quali sono questi esperimenti non LHC al CERN? Andiamo addirittura sulle nuvole? Beh sì, un esperimento che stiamo iniziando è effettivamente un pochino fuori dalle nostre cose normali. Stiamo studiando la formazione delle nuvole a seguito del passaggio dei raggi cosmici. Come sapete, la radiazione cosmica bombarda la Terra provenendo dallo spazio e si è scoperto anni fa che le particelle dei raggi cosmici hanno la funzione di aggregare le micro goccioline di aerosol che poi formano le nuvole. Questo può avere importanti conseguenze per il clima, nel senso che ad esempio la quantità di raggi cosmici che arriva sulla Terra viene regolata dall'ozono, dall'attività delle macchie solari, dal campo magnetico terrestre. Noi adesso al CERN stiamo studiando questa cosa, invece di usare raggi cosmici, usando i fasci di particelle e ricreando le condizioni per fare le nuvole in questa grande camera che può studiare tutti gli aerosol e fare tutti gli aerosol possibili al mondo e studiarne le conseguenze. Questo tra l'altro permette di studiare anche la presenza di inquinanti che possono essere aggiunti nell'effetto della formazione delle nuvole. Nuvole artificiali quindi, ma esattamente. Andando ancora oltre, diciamo, fuori dalla nostra atmosfera c'è qualcosa di molto più misterioso, l'antimateria. Ci spiega cos'è e cosa ne fate al CERN? Beh, l'antimateria è quella cosa che è assolutamente speculare a quello di cui siamo fatti noi. Se noi siamo nati da un Big Bang, la quantità di materia e di antimateria all'inizio dell'universo doveva essere uguale, perché l'energia si trasforma in materia e antimateria e la materia, incontrandosi con l'antimateria, si ritrasforma in energia. Quindi l'antimateria è identica alla materia che ci compone, però dotata di caratteristiche opposte. Per esempio un elettrone di antimateria, anziché essere negativo, è positivo. È positivo, esattamente. È un protone che normalmente è positivo. Se uno riesce a costruire un protone negativo, crea l'antimateria del protone, che viene chiamato antiprotone. Mettendo assieme queste particelle si possono creare atomi stabili di antimateria. Ad esempio, mettendo assieme un antiprotone e un positrone, ossia un antielettrone, uno crea un atomo di antiidrogeno, che è una particella perfettamente stabile. In questa maniera possiamo studiare se le proprietà dell'antimateria sono identiche nei minimi dettagli alle proprietà della materia. E perché volete fare questo tipo di misura? Perché deve essere esistito a un certo punto dell'utore dell'universo, e sappiamo anche quando, nei primissimi istanti, nei primi miliardesimi di secondo, un meccanismo che ha cancellato la grande quantità di materia e di antimateria, lasciando come rimasuglio essenzialmente un po' di materia, che è tutto quello di cui è fatto l'universo e di cui siamo fatti noi, e pochissima antimateria. E quindi volete capire dove è andato a finire il resto? Esattamente. Ci parla anche di neutrini. Dal CERN, proprio verso l'Italia, partivano dei fasci di neutrini per degli esperimenti al Gran Sasso. Sì, stanno partendo anche in questo istante, ne stiamo mandando copiosamente verso il Gran Sasso, per studiare un'altra proprietà misteriosa di questi neutrini, che mentre viaggiano si cambiano di natura, per cui partono, per dirla, partono maschi e arrivano femmine. Noi sappiamo il sesso di quelli che partono, e al Gran Sasso guardano il sesso di quelli che arrivano. Questa proprietà, se troveranno un certo numero di cambiamenti di natura di questi neutrini, porterà a una conferma del fatto che i neutrini hanno massa, a una misura della loro massa e alla misura della probabilità che un neutrino di un certo tipo si trasformi in un altro. Tutte queste cose sono in qualche maniera connesse attraverso un meccanismo globale che è ancora largamente da scoprire e che probabilmente richiederà l'impiego contemporaneo delle scoperte di LHC e delle scoperte in tutti gli altri esperimenti che sono in corso nel mondo e non soltanto al CERN. Grazie Sergio Bertolucci, speriamo di risentirla presto per il nuovo lancio dell'LHC. Sì, ce lo auguriamo tutti. A molto presto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cosa accade quando un fiume finisce il suo corso ed entra nel mare? Chiara Albicocco ora vi racconta come da questo incontro, che potremmo definire agrodolce, si può ricavare energia. Immaginiamo la foce di un fiume, il punto in cui l'acqua salata del mare si incontra con quella dolce di un fiume. Pensiamo ora di sfruttare la differenza di potenziale tra soluzioni che presentano concentrazioni saline diverse per produrre energia pulita e gratuita. Per fare questo ovviamente è necessario installare impianti capaci di estrarre e di catturare questa quantità di energia. Fino ad ora le realizzazioni di queste centrali erano decisamente antieconomiche, visto che si trattava di sfruttare il principio di osmosi attraverso membrane piuttosto costose. Ecco, un ricercatore dell'Università di Milano Bicocca ha scoperto come ottenere questa energia in maniera efficiente e soprattutto a costi vantaggiosi. Si chiama Doriano Brogioli ed è qui con noi questa sera. Benvenuto. Buonasera, grazie della presentazione. Senta, dobbiamo dire subito che lei è un ricercatore del Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università Milano Bicocca, che studia una cosa completamente differente da quello che abbiamo appena detto, cioè si occupa dell'elettrocinetica del DNA per sviluppare farmaci antitumorali. E quindi come mai ha messo a punto un sistema per estrarre energia? Sì, in realtà il substrato, le conoscenze che servono per studiare il DNA o per studiare la malattia di Alzheimer dal punto di vista fisico o biofisico sono le stesse che poi sono servite per sviluppare questa scoperta. Le faccio un esempio, nel caso dell'Alzheimer si pensa che la malattia sia causata dall'aggregazione di piccole proteine, dei peptidi che si chiamano A-beta come sigla. Questi per noi che siamo dei fisici, noi li modellizziamo come se fossero dei piccoli oggetti carichi all'interno di una soluzione salina, e messo in questi termini è un aggeggio, si tratta di aggeggi molto familiari ai fisici, cioè sono oggetti che hanno interazioni elettrostatiche. Sia in questo caso sia nel caso della meccanica del DNA, uno poi cerca di modellizzare questi sistemi, scrive delle equazioni che si possono scrivere, sono anche abbastanza classiche, e proprio facendo questo tipo di indagine, facendo una serie di esperimenti su DNA e questi peptidi a beta, ci siamo imbattuti in una serie di equazioni, e appunto un po' la curiosità è nata dal fatto che sembrava che cambiando la salinità dell'ambiente in cui si trovano questi oggetti, l'energia del sistema potesse cambiare. Dopo un primo momento di sorpresa sembrava, ma forse ho sbagliato a scrivere le equazioni, ci siamo accorti che invece no, era veramente così, e ho iniziato a pensare come si poteva fare per estrarre dell'energia dalla differenza di salinità. Quindi studiando insomma l'elettrocinetica del DNA in realtà ha trovato il modo di sfruttare l'energia in altro modo, e quindi esatto. Qui c'è stata l'idea di che cosa? Di costruire, o meglio di progettare un supercondensatore che funzionerebbe come? Sì, la tecnologia dei supercondensatori diciamo che esisteva già, è un uso completamente diverso di questi supercondensatori. Il supercondensatore è fatto da due elettrodi di carbone attivo tipicamente, cioè di un materiale estremamente poroso, una spugna molto porosa. Questi due elettrodi, una volta immersi in un liquido, una soluzione salina, costituiscono un condensatore di grandissima capacità. Un condensatore, tanto per essere chiaro, è qualcosa di simile a una batteria, come la pila del cellulare, una pila ricaricabile. Sì. Quindi quando i due elettrodi vengono immersi nella soluzione salina, si possono caricare, cioè si mette su una differenza di potenziale e queste attraggono gli ioni della soluzione, gli ioni ovviamente opposti alla loro carica, e si riempiono di ioni. Avendo una grande porosità si comportano da spugne, quindi riescono a catturare una quantità immensa di ioni che poi possono rilasciare durante la fase di scarica. Quindi costituiscono qualcosa di simile a una batteria e proprio per questo uso sono già abbastanza entrati nell'uso tecnologico, come sostituti di batterie con grosse capacità e velocissimi tempi di carica e scarica. Quindi in soldoni, facendo entrare dell'acqua salata, queste si caricano, poi viene svuotata e poi viene ririempita dall'acqua dolce. Sì, la nostra scoperta è questa: come fare a usare questa tecnica per ottenere energia. Quindi inizialmente mettiamo questi elettrodi in acqua salata, li carichiamo, una volta carichi cambiamo il liquido, mettiamo acqua dolce. In questo momento c'è la creazione di energia, cioè l'energia all'interno del condensatore aumenta, e questa è una cosa che nessuno aveva ancora osservato, nessuno aveva ancora sperimentato. A questo punto noi estraiamo l'energia ottenuta e rimettiamo di nuovo acqua salata. Facendo questo ciclo riusciamo a estrarre energia. È un ciclo in quattro fasi, ricorda un po' le quattro fasi del motore a scoppio. Sì, ecco, dicevamo all'inizio che non era mai stato utilizzato questo tipo di sistema perché era molto costoso, perché si dovevano utilizzare delle membrane molto costose, facilmente sporcabili, per diciamo far entrare e uscire l'acqua di diversa salinità. Invece adesso, con questo utilizzo dei carboni attivi, invece sembrerebbe piuttosto economica la faccenda. Sì, la speranza è proprio questa. Le tecniche tradizionali usano membrane osmotiche che hanno dei costi assolutamente improponibili. Quando era stato proposto negli anni 70 nessuno avrebbe mai pensato che si potesse realizzare. Poi i costi sono scesi, adesso c'è veramente interesse e ci sono aziende che veramente ci stanno provando con queste membrane. Purtroppo però l'acqua deve passare attraverso la membrana, quindi le minime impurità vengono poi assorbite dalla membrana, che in poco tempo diventa inutilizzabile. I costi con questo tipo di impianti tradizionali sono alti, cioè sono maggiori del fotovoltaico, e già sappiamo che il fotovoltaico purtroppo è troppo costoso. Invece per un sistema da voi pensato sarebbe... Faccio conto che il materiale che usiamo è carbone attivo, qualcosa di abbastanza simile alla carbonella di legna che si usa per il barbecue, tanto per dire. Quindi sono materiali che si fanno partendo dal legno, lo si carbonizza e il costo è molto più basso, e la speranza è che anche, o meno, la prima sensazione che abbiamo è che il materiale tenda meno a sporcarsi, quindi che possa durare un po' di più delle membrane osmotiche, perché non c'è flusso attraverso, l'acqua passa vicino o sopra all'elettrodo ma non deve essere spinta a pressione dentro. Okay. Quindi i costi, la valutazione così molto, molto a spanne, è che possano arrivare approssimativamente ai costi della produzione di energia elettrica, costi di mercato, quindi paragonabili all'energia elettrica prodotta con impianti eolici. Bene, quindi direi sostenibile. Sì. Addirittura paragonabile a quella dei combustibili fossili. Dove potremmo installarlo un impianto di questo genere? All'inizio abbiamo detto alle foci di un fiume, ma in realtà ci sono altre zone, altre aree dove si può sfruttare questa differenza di salinità. Sì, esatto. Gli impianti più semplici da realizzare utilizzano salinità più alte, cioè il contrasto di salinità non avviene tra acqua di fiume e acqua di mare, ma tra acqua ottenuta, acqua molto salata ottenuta per evaporazione. Ad esempio potremmo utilizzare una salina. In Italia ci sono moltissime saline, non è più tanto economico estrarre il sale, però noi potremmo farle funzionare lo stesso. L'acqua molto salata che si ottiene dall'evaporazione la potremmo utilizzare nel nostro impianto a contrasto dell'acqua meno salata che c'è nel mare, e in questa maniera si riesce a dare anche un significato a questi bellissimi ambienti che sono anche un'attrazione turistica. Certo, si può sfruttare in qualche modo. Sono quasi inutilizzati al momento perché appunto l'estrazione del sale in questa maniera non è tanto economica. Mi ci dà un significato. Ecco, senta, qualcuno si è già fatto sentire per investire sulla vostra idea? Sì, allora qua bisogna essere cauti, nel senso certo. Che prima di arrivare a un prototipo secondo me ci vogliono almeno 2 anni di ricerca di base. Poi alla fine di questi 2 anni la palla passa alle aziende. A questo punto ci sono già, sì, effettivamente c'è un'azienda, uno spin-off del Politecnico che si è fatto avanti, interessato, e un'azienda olandese un'università olandese che lavora in collaborazione con un'azienda che si chiama, con un centro di ricerca che si chiama Vetsus, che stanno già realizzando alcuni piccoli impianti pilota con le tecniche tradizionali. Va bene, quindi qualcosa si sta muovendo. Ecco. Il lavoro su questa tecnica, sì. Certamente, allora le facciamo in bocca al lupo e grazie, insomma ci faccia sapere se qualcosa si dovesse muovere concretamente. Grazie ancora dell'attenzione. Quelle che state ascoltando sono sonorità emesse dal Silent Drum, ovvero un tamburo silenzioso, che come sentite non è affatto silenzioso, ma lo è come tamburo, questo sì. E poi il nome discende anche dal fatto che la forma di questo strumento è quella di un cilindro alto 60 cm circa, con un diametro di 40 cm. E verso l'alto c'è una membrana circolare che chiude il cilindro. Quindi qualcosa di molto simile a un bongo. La membrana tuttavia è molto morbida, molto elastica e con le dita della mano la si può facilmente premere verso il basso di 10-15 cm. Tutto l'apparato è collegato a un generatore di suoni digitali. Questi suoni sono attivati dai molti modi e dalle diverse pressioni della mano sulla membrana nei punti più diversi. Lo strumento è stato progettato dal Centro di Ricerca su Arte e Computer della Università di San Diego negli Stati Uniti. Vi dico ora che il movimento delle mani del suonatore del Silent Drum è molto curioso. In certi passaggi è molto simile a quello di un pianista, in altri a quello di un percussionista, ma poi sembra essere il movimento di un massaggiatore di shiatsu, oppure quello di un artigiano che modella la creta di un vaso. E proprio questo è il centro della ricerca. Abbiamo già da tempo della musica sperimentale che usa suoni generati da computer. Qui si vuole creare nuovi strumenti che siano maneggiati, usiamo questa definizione per capirci, come avviene con gli strumenti tradizionali, solo che i suoni sono nuovi e il movimento delle mani anche. Questo perché la musica e anche lo stile, quel certo modo di suonare il piano o il violino o la tromba, è qualcosa che fa una sintesi fra lo strumento e un certo modo di toccarlo, no? È così. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto nella nostra trasmissione di Mebius ospitiamo degli studenti del Master in giornalismo biennale post-universitario che si tiene allo IULM di Milano. Questa sera ne abbiamo due, Sara Occhipinti. Buonasera Sara. Buonasera Federico. E Jacopo D'Andrea che è a Roma. Buonasera. Buonasera Jacopo. Federico. Abbiamo anche nostro ospite Mauro Dorato. Buonasera Dorato. Buonasera. Filosofo della scienza del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma 3. Allora, perché abbiamo un filosofo della scienza? Beh, perché nel costruire questo servizio per Mebius voi avete scelto un tema che, devo dire, non è molto banale e parte da una frase famosa, insomma, quella di Einstein, Jacopo, Dio non gioca dadi. Sì, esatto. Ci siamo imbattuti io e Sara nella nostra ricerca in questa frase che è piuttosto famosa, però abbiamo visto anche che ci sono diversi fraintendimenti su quello che voleva dire veramente Einstein, nel senso che Dio non gioca a dadi non è una frase che rispecchia appunto un punto di vista religioso di Einstein, no, ma certo. Bensì è una frase che riguarda certe prese di posizioni scientifiche nel dibattito scientifico di allora. E in particolar modo la sua, diciamo, avversione a certi risultati a cui era giunta la meccanica quantistica, nel senso che Einstein era convinto che tutti i fenomeni scientifici fossero deterministici, nel senso che la componente casuale o indeterminata o probabilistica non ci fosse, cioè quello che noi chiamiamo caso in realtà è il nostro limite di conoscenza. Mauro Donato, ci introduca un po' in questo, su questo tema. In realtà il problema per Einstein era quello di cercare di stabilire che la meccanica quantistica, che lui tra l'altro aveva contribuito a creare, è incompleta, ovvero più che al problema del determinismo, al quale comunque Einstein teneva, la difficoltà per Einstein aveva a che fare con il fatto che secondo lui c'erano degli elementi di realtà, come lui li chiama in un famosissimo saggio del 35, c'erano degli elementi di realtà che la teoria fisica quantistica non descriveva. E beh, certamente va aggiunto che Einstein era un profondo conoscitore di Spinoza, che difese una concezione appunto deterministica del mondo, ovvero esiste sempre una ragione per cui qualcosa accade, e dunque è effettivamente corretto dire che la sua propensione era per il determinismo, ma sarebbe stato anche soddisfatto di una specie di completamento, se vogliamo, statistico della teoria, per cui la teoria stessa potesse essere in qualche misura considerata più completa, a patto di eliminare quei fenomeni di non località che lo preoccupavano. A questo punto noi ci chiediamo, e chiediamo di rimando anche a lei, il caso domina effettivamente alcuni fenomeni scientifici oppure no? Prima che ci risponda però vorremmo farle ascoltare quello che ci ha spiegato un ricercatore, Domenico Parisi, che si occupa appunto di vita artificiale presso l'Istituto di Psicologia del CNR di Roma e che ci ha un po' raccontato come funzionano questi studi nei quali si cerca addirittura di simulare il caso. Dunque, la vita artificiale significa cercare di riprodurre in qualcosa di fatto da noi, un artefatto, i fenomeni della vita biologica. Quindi la vita biologica ha tante manifestazioni, gli organismi si riproducono, gli organismi nascono e muoiono, gli organismi interagiscono con l'ambiente, gli organismi cambiano nel corso delle generazioni perché si riproducono alcuni di più di altri, quindi c'è il processo dell'evoluzione, diciamo, darwiniana, e gli organismi poi sviluppano un sistema nervoso centrale, quelli più sofisticati. Questo è i fenomeni biologici, no? Interagiscono fra loro. La vita artificiale cerca di capire meglio questi fenomeni, cerca di studiarli con un metodo diverso, che è quello di: mi interessa di capire il fenomeno X, fammi riprodurre il fenomeno in un artefatto, perché sono vita artificiale, cioè qualcosa di fatto da me. Fatto da me può essere una cosa simulata nel computer, oppure anche fisicamente realizzata, perché un robot è un organismo artificiale fisico. E naturalmente, siccome l'evoluzione biologica viene riprodotta dalla vita artificiale in organismi artificiali simulati al computer, anche qui noi facciamo operare il caso, nel senso che noi abbiamo un DNA simulato, che quando un organismo artificiale produce un figlio artificiale, noi lo cambiamo casualmente in alcuni aspetti, per cui il figlio non è identico al genitore. Siccome noi vogliamo riprodurre la realtà ha le mutazioni genetiche e noi non possiamo ignorarle. E solo così si ha la così creatività del processo evolutivo, no? Cioè l'invenzione di nuove forme. Ecco Dorato, noi l'abbiamo fatto sentire questo pezzo di intervista di Parisi perché la vita artificiale appunto studia in generale i processi evoluzionistici e mi pare che proprio nella teoria evoluzionistica ormai sia entrata come un dato di fatto, insomma, questa presenza del caso come un elemento che non si può ridurre, ineludibile. Sì, anche se poi sulla parola caso, soprattutto in ambienti teologici, si è fatto una speculazione poco ragionevole, sì. Nel senso che quando parliamo di modifica, come diceva anche Parisi, casuale del DNA, quello che intendiamo non è che queste modifiche non abbiano una causa precisa. Per esempio, nel caso degli esseri viventi reali e non simulati, si può pensare a dei raggi cosmici, particelle emesse dal Sole o da altre stelle, che modificano il DNA. Quindi queste modifiche sono causate. In realtà, quando diciamo che però sono casuali, quello che intendiamo dire è che non nascono per soddisfare un bisogno dell'organismo o per rendere l'organismo, diciamo così, più adatto rispetto all'ambiente. Quindi sono cieche da questo punto di vista, ma non prive di una causa fisica ben precisa. La modifica però non è orientata dai bisogni dell'organismo, ecco perché diciamo casuale. Però questo poi, ripeto, viene utilizzato dai teologi per dire che o mettiamo dentro il disegno dall'inizio oppure il caso non spiegherà mai perché abbiamo degli occhi, organi così complessi come le ciglia che servono a proteggerli. Adesso, professor Dorato, le faremo sentire l'opinione circa l'approssimazione negli studi di meteorologia del direttore degli istituti sistemi complessi presso il CNR di Firenze, Antonio Politi. Quello che allora chiunque si occupi di previsione in qualunque contesto deve fare è concentrare il proprio interesse su un sottoinsieme del mondo. Se questo sottoinsieme può essere per il tempo atmosferico, la densità, tutte le variabili che descrivono le nuvole, l'evoluzione, la temperatura dell'aria, del mare, eccetera, eccetera, e tralasciare tutto il resto, ipotizzare che tutto il resto non sia altro che una specie di rumore, diciamo caso, qualcosa che chiamo caso perché per definizione a priori dico che non sono in grado di descrivere in nessun modo. E allora il mio modello, la mia visione del mondo diventa quella di un sistema che in una parte del mondo che pretendo di conoscere con la precisione dovuta, in più però soggetto a perturbazioni, a modifiche esterne, perché questo è una parte del mondo e non è il tutto. Ecco Donato, qui se non conosciamo le cose approssimiamo, ma se queste cose sono intrinsecamente casuali approssimeremo per sempre, insomma non avremo mai un modo per sapere perfettamente come va il tempo. E soprattutto poi per il tempo c'è bisogno di approssimazione, perché il tempo è uno di quei fenomeni che si chiamano caotici, detto molto semplicemente, quindi due valori molto vicini della temperatura e della pressione ora possono dare origine da una parte a bel tempo e dall'altra a una catastrofe naturale. Questo perché i sistemi che si chiamano appunto complessi o caotici dipendono dalle condizioni iniziali. I sistemi invece che sono comunque deterministici, che sono stabili rispetto alle condizioni iniziali, non risentono perturbazioni. Se io metto una pallina in fondo ad una valle e sposto la pallina ritornerà in posizione di equilibrio. Certo, certo. La pallina sta in cima ad una collina, una piccola spinta la fa cadere da una parte o dall'altra. È interessante comunque notare che anche i fenomeni meteorologici rispondono al determinismo di cui parlavamo, cioè dato un presente, ad un presente corrisponde un unico futuro e non una ramificazione di futuri possibili come sarebbe con l'indeterminismo. Quindi più passa il tempo e più il fenomeno diventa imprevedibile, ma l'imprevedibilità non è incompatibile con l'indeterminismo. Grazie professor Donato per i suoi contributi sul caso. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Sara e grazie Jacopo. Grazie a voi. Grazie e buonasera. Tutto quello che avevamo da raccontarvi ve l'abbiamo raccontato. Buona serata a tutti e tutte. Ci sentiamo la prossima settimana.